Adam. Tristan. X. La serata di Magnan. Ava piaciuto in cui. È stato divertente. Sì, anche a me mi piaceva. Gran bel po' da fiori. Era mio. Un bel ambiente. Già. A vorrei una fonata in del ristorante, ci paga una boccata d'aria? Sì. Sì, va bene. Andiamo a fare un giro? Ma sì, dai. Ma sì. Andiamo in bicicletta? Va bene. Sì, sì. Sa che è partito? Speciati, mia passia a ciappare la bici, va bene. Ok. Tu veni a pe? Sì, ho venito con mia fino a me e poi ne... Ok. Sì. Adam, guarda che bella luna che c'è in cui. T'hai visto? Sura l'adula. È da un po' che le splendisci tanto. Sì. Dove andiamo? Tri, sotto a cattò e poi torno su da là. Fermo il giro dal paese come una volta. Va bene. Quando c'erano tutti insieme. Va bene, va bene. A sfermo magari al campone, a giocare a calcio. Va bene. Ma sì, fermo una partita. Sta salita qui è pesante, eh. Porco cane. Ora sì. L'è sempre distante il parco giochi. Boh. Cosa fai? Girate un attimo in tre che vedi più l'Adam. E chissà dove è nato quell'altro. Arrivi. Sì, come sempre, tutto aperto in giro. Ma no, metti il pass. Dai, muovat. Sì. Girate lì che senti un po' nodo da schivo. Anche a me? Ma chissà cosa che è giù lì, in quei animali morti. Andiamo a vedere. Ah, l'ha saperto. Nem, tre. No, mi piace. Dai, nem. E ora nem. Ciao. La sei chi bicicletta per nemmeno corsa. Io va bene, metti lì da drene, che almeno su è mia. Sì, nem giù. Guarda chi, cos'è sti rocchi? Porco cane! Adam, va giù per la bruga. Sì. Cos'è? Pigri o chio? Ma è par pigra. Ma è mazzei e crudei o è stato mazzei? No, è stato branei da una qualche bestia. Ah, chissà poro contadin. O che era nascondu sicuro, secondo me. Sarissa me c'ha mal guardia caccia, no? Sì. Ma, però... A vacca caga che dice a mia mamma. Male, mei, ma... So mia se mettersi in questi... Poga una puzza che... Secondo me le metto su una via e la saper. E poi c'è un massimo dopo, va bene? Sì. O diso niente a nessuno se la tengo per noi. C'è che ne sotto i bici? Sì, va bene. Ok, buon. Mi va dica agli altri che nel mio giga a football e devo tornare un attimo a ca. Sì, ok, mi sa che avvoca dica i mei da sta roba qui perché... E vengo in amica, mi va a cacamea. Va bene, allora svedo. Sì. Ciao. Ciao.